il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Mi prendo un istante di tempo perché ho un debito con chi mi ascolta. Devo darvi comunque ragione del vostro impegno, del vostro entusiasmo a partecipare a un progetto che era partito per essere una cosa enorme, fantastica, di cui avrebbe parlato tutto il mondo, ma in realtà è stato, come la maggior parte delle attività, dei sogni, delle immaginazioni, dei progetti di vita, bloccato dal coronavirus. Vi ricordate, avevo chiamato a raccolta qualche mese fa a dare dei vostri oggetti a cui si attribuiva un valore fantastico, un valore straordinario, perché avevamo fatto una grande asta out of the ordinary, e quest'asta naturalmente sarebbe stata un'asta in cui avrebbero partecipato tante persone, avremmo chiamato gente a vedere, persone importanti, avremmo sciorinato gli oggetti che abbiamo raccolto per tutta Italia. Abbiamo anche fatto un film su questo, io ho girato l'Italia assieme a mio figlio Tommy, lo sapete, perché Radio 24 ha trasmesso un podcast dove raccontavo il backstage, il dietro le quinte di questo nostro viaggio. Beh, il film è andato in onda su Sky Arte, come era previsto, il 2 aprile. Il film doveva essere l'anticipatore dell'asta, della straordinaria asta degli oggetti fuori di testa, ma l'asta non si può fare perché non possono radunarsi delle persone in un luogo chiuso, ma la faremo lo stesso. La facciamo oggi, la facciamo online, oggi alle 14 dal sito cambiaste.com. potete iscrivervi anche subito, potete seguire in diretta la nostra asta e anche partecipare se volete. Vi devo anche raccontare degli oggetti che voi avete offerto, quali sono stati messi all'asta, sono nel fantastico catalogo di questa asta, potete scaricarvelo sempre dal sito Cambiaste, è un catalogo in cui ci sono gli oggetti che avete sentito raccontare giorno per giorno alla radio, come la reliquia di Italo Balbo, lo sgabello del re, vi ricordate lo sgabellino dove il re in esilio in Africa usava per salire in macchina, il suo autista l'ha messo all'asta e sarà messo all'asta. La scarpa enorme di Primo Carnera, un calzolaio che forniva le scarpe al grande campione del pugilato, una scarpa numero 55, non so bene, che usava come modello per fargli le scarpe. Lui viveva negli Stati Uniti, l'ha messa all'asta. Poi ci sono tutte le marchette, gli accessori delle case di tolleranza, sono risultate molto interessanti, già stanno facendo delle offerte. Poi ci sono le fotografie di Fabrizio Intonti, perché anche quello è giusto essere, che siano messe all'asta, dei fantastici animali che lui ha fotografato, e ci sono anche disegni di Tommy, se volete alla fine. Quindi se volete seguirci fino all'ultimo nella coda improvvisata ma altrettanto efficiente, perché le aste si fanno online, sarà un'asta a tutti gli effetti come un'altra asta, solo che le persone invece che toccarsi, invece di partecipare appunto all'asta in carne ed ossa, lo faranno da casa loro. Tutto facciamo attraverso le vie digitali. Quindi chi vuole, oggi io ci sarò, ci saranno tutti i nostri amici su cambiaste.com, vedete come iscrivervi. Alle 14 vi do appuntamento per l'asta dei cervelli ribelli e andiamo all'argomento di oggi. In questo video voglio mostrarvi come possiamo tagliarci i capelli da soli a casa, anche perché immagino che soprattutto in questo periodo sia un'esigenza che molti di noi hanno. Prima di tutto abbiamo bisogno di una macchinetta. Se avete i distanziatori nella macchinetta, molto meglio. Usiamo come riferimento lo specchio più grande, quindi ci giriamo e iniziamo ad andare a lavorare. Non lo faccio andare avanti perché il bello di questo video è che bisognerebbe vederlo. Un signore spiega come ci si fa a tagliare i capelli a casa, è un problema di tanti. Chi mi vede in questo momento attraverso il canale video di Radio 24, dal sito Radio 24, vedrà, alzo un attimo la cuffia, che i miei capelli non sono quelli che siete abituati a vedere. Ho una sorta di cresta che non so bene come definirla, mi si drizzano da tutte le parti, sono diventati lunghi come li portavo così dai fantastici anni 70, ho finito anche il gel che mi teneva abbastanza appoggiati sulla testa, e quindi dovrò anch'io forse far quello che suggerisce questo signore, che è improbabile. Prende un rotolo di scotch, quello di carta, quello che usano i decoratori, si fa una specie di corona intorno alla testa con questo scotch che segna il limite per la macchinetta, e poi si fa i capelli al di sotto dello scotch, secondo lui fa la sfumatura. Ma questo è uno dei tanti mestieri che abbiamo dovuto imparare. Gioco forza, stamattina mi ha chiamato un'amica mia che fa l'avvocato, mi ha detto: ho tagliato i capelli a mio figlio, dice, una cosa orribile, non lo posso vedere. E da parte mia, siccome un po' di ricrescita e non ho il coraggio di farmi la tinta da solo, ho comprato uno spray e mi do lo spray in mezzo ai capelli per togliere la ricrescita. Ma io so di signore per la prima volta nella loro vita hanno comprato la tinta, si fanno la tinta, viene anche bene, devo dire. E dicono: mai pensate che andavo una volta a settimana dal parrucchiere, non c'è bisogno. Ma quante altre cose abbiamo imparato che non pensavamo che mai avessimo dovuto fare in casa nostra? Le piccole riparazioni quotidiane. Io ho il divertimento di essere anche vettore di consigli, perché molti mi chiedono, sapendo la mia qualifica di cintura nera in smontaggio Geberit, perché chissà perché le cassette dello scarico dei bagni si intasano con il calcare proprio in questo periodo che non ci sono gli idraulici, o è raro trovare un idraulico. Poi c'è un'infinità di altri lavori che bisogna fare per forza dentro casa, aggiustaggi, interventi. Non ci sono idraulici, non ci sono falegnami, non ci sono elettricisti, non ci sono parrucchieri, non ci sono estetisti. La famosa depilazione, che sembrava una cosa che irrinunciabile per tante persone, uomini e donne, non voglio entrare in particolari scabrosi. Beh, oggi chi era abituato una volta a settimana andare a fare il ritocchino nelle parti basse, se lo deve fare da solo. E mi fa ridere farlo a casa con marito, figli, suocera, nuora, bambini, casino, farlo con i sistemi arrangiati che si possono trovare a un supermercato, non è mai quello che è il top. Beh, oggi volevo convocare i miei ascoltatori su quello che ho dovuto affrontare, visto che voglio ogni tanto dare anche un po' di relax. Poi da domani ricominciamo a parlare delle cose toste, di quelle che stringono l'anima. Oggi pigliamoci il lusso di riflettere su quello che non sappiamo fare. Fare il pane, le persone che si fanno il pane, chiamate 80024 0024 e diteci come avete affrontato l'impresa di farvi il pane. Il lievito manca, costruirsi il lievito a casa, come ci si fa il lievito dentro casa? Vengono fuori, grazie a Dio, tutti i consigli della nonna che abbiamo nel nostro DNA, ma anche, diciamo, quello che si legge nei vari tutorial. I creatori di tutorial in questo momento hanno una grande fortuna, perché spaziano dall'aggiustaggio dei computer, l'aggiornaggio dei computer, l'aggiornamento dei computer, anche semplicemente scaricarsi l'aggiornamento di un sistema operativo. Per molti era un'operazione impossibile, prendevano il computer, lo portavano in un negozio e se facevano fare un aggiornamento potevano farsi a casa anche loro. 80024 0024, voglio sapere da voi oggi quali sono stati i lavori che avete imparato gioco forza standovene chiusi dentro casa e non avendo nessuno che ci pensi per voi. Voglio provare a riparare questa sedia in un momento come questo di quarantena, cioè senza la possibilità banalmente di poterne acquistare una, visto e considerato che non sappiamo quanto ancora durerà questo periodo di restrizione e conseguentemente attualmente se si fanno degli ordini online si dà la precedenza ai beni di prima necessità, e mi sembra anche giusto, oggi voglio provare a riparare questa sedia per tutto il tempo necessario con gli strumenti e i materiali a mia disposizione, quindi senza acquistare nulla da fuori ma arrangiandomi con quello che ho. 80024 0024, gli italiani riscoprono, quelli che non avevano l'età e non avevano anche la collocazione topografica per definirsi tale, il fascino dell'umarellaggine. L'umarell è colui che sa aggiustare tutto, sa mettere le mani dappertutto, sa fare di idraulica, di elettricista, di fagnameria, fa tutto male, fa tutto di schifo, fa tutto in maniera assolutamente insicura, però lo fa, però ci mette le mani, almeno ci prova. Guardate che oggi l'aggiustaggio casalingo è anche reso difficile da una circostanza funesta. Sono chiusi i negozi dei cinesi, sono i primi stati ad essere chiusi, che era una fonte inesauribile di pezzi di ricambio, di piccoli oggetti, di utensili a buon prezzo, colle, collanti, chiodi, bulloni. Ecco, quello che questo signore dal canale YouTube Vagab sta spiegando è come si aggiusta una sedia che magari era rotta a casa, stava lì, giaceva cadaveri chissà da quanti anni. Adesso, a forza di girarsi intorno, dopo aver ciabattato per casa, dopo aver guardato tutti i canali televisivi possibili, dopo aver scannellato tutti i possibili social, dopo aver curiosato in cucina mentre la moglie sta cucinando, cosa può fare? Aggiusta la sedia e si mette lì con la colla a aggiustare la sedia. Ho visto cose che voi umani nemmeno potete immaginarvi, persone che mi facciano vedere attraverso la chiamata video di WhatsApp la loro cassetta otturata, e io spiegavo il difficilissimo meccanismo dello smontaggio del pannello esterno della cassetta Geberit. Ma cosa vi è successo dentro casa in questi giorni che vi ha creato un'ulteriore angoscia nell'angoscia generale che stiamo condividendo tutti? Ho sentito testimonianza di un idraulico che conosco, amico mio, e mi ha detto delle infinite chiamate che riceve ogni giorno. Chiamate, dice, la gente mi chiama perché perdo un rubinetto. E io dico, signora, io già per me è difficile muovermi, devo essere molto motivato, devo giustificare la chiamata, devo verificare se il grossista che vende pezzi di cambio aperto, non posso venire a casa sua per un rubinetto che perde. E cerca di spiegargli al telefono un rubinetto che perde, come facilmente può essere in qualche maniera aggiustato. La perdita, si tratta di una guarnizione rotta, si fa una guarnizione d'emergenza. 800240024, Andrea da Firenze. Andrea, buongiorno. Pronto, buongiorno, grazie per aver richiamato. E io volevo grazie raccontare... a lei, vediamo cosa ha imparato lei in questi giorni che non sapeva fare prima. Io ho imparato a farmi i capelli, ma era stata una storia un po' che... vecchia, perché andavo sempre da un barbiere il quale mi riempiva la testa, ma dottor l'ha vista a Lazio, ha visto che gol che ha fatto quello, ha visto sì, che partita. Barbieri che chiacchiera. Alla fine mi sono stufato e ho comprato una macchinetta Moser tedesca, quindi fantastica, e mi sono fatti i capelli da solo. Da quelle quel di momento, una volta, quelle che non si rompono. Sì. Quelle non si rompono. Mi spieghi una cosa? No, scusi, io potrei essere interessato al suo tutorial, dal momento che prima o poi dovrò farmi i capelli, siccome penso che passerà parecchio tempo prima che... facilissimo. Come se li fa a fare dietro la nuca davanti a uno specchio? Chi la guarda dietro? Nel frattempo i miei capelli si sono ridotti di vabbè, quantità. L'hai mezzo pelato, è un altro discorso, fa prima. Con due specchi, uno davanti, uno dietro. Ah, bisogna mettere lo specchio contrapposto. Cosa che non ho a casa, un unico specchio. Meglio ancora se ci sono quegli specchi lì sagomati che si possono orientare. Vabbè, ma quelli, sì, ma quelli uno se ce li aveva a casa bene. Oggi ma dove lo compro oggi uno specchio sagomato? Non è possibile. Vabbè, potrebbe mettersi lo smartphone dietro la nuca, mette il telefono dietro la nuca e vede la nuca. Però ci vuole qualcuno che glielo tenga, oppure ci vuole un piedistallo. Vabbè, c'è qualcuno comunque... che mi tiene lo specchio, mi faccio fare i capelli a questo punto. Se avessi qualcuno che mi tiene lo specchio, faccio prima. Vabbè, Andrea, comunque è il primo passo. Andrea ha messo in campo la sua arte marziale dell'autotaglio di capelli, che vengono sempre delle cose abbastanza orribili. Se uno ha pochi capelli, è fortunato, taglia tutto. Valentina da Bergamo, cosa ha imparato lei? Ho imparato a cucire a macchina, mai l'avrei pensato di tirar fuori dal garage la vecchia macchina da cucire di mia mamma, e questo mi emoziona molto perché è una macchina a pedali. Ma era la sua o di una sua parente scomparsa? No, era di mia mamma, io che ormai è scomparsa da molti anni. Ma che ma lei avrebbe mai pensato di tirare fuori la macchina da cucire? Assolutamente, ho fatto tutt'altro nella mia vita e sono qui che accorcio i pantaloni dei miei nipoti. E ma come ha imparato? Ha guardato in rete, guardato, i tutorial? Sì, ho guardato su YouTube un attimo come si infilava. Aveva filo, aveva tutti gli accessori c'aveva. Il filo lo sono fatta dare da mia sorella, mi sono messa lì, ma questo da poco, proprio da una settimana, per quello che quando vi ho sentito oggi mi è venuto molto da sorridere. E cosa fa? Accorcia pantaloni, fa ordini, allora, cos'altro può fare? Adesso non vedo l'ora, faccio persino gli orli agli straccetti delle polveri, perché... utilissimo, perché i straccetti dei polveri se non c'è l'orlo uno non ci può pulire, capito? È vero che è un dramma, no, perché certo, mia figlia mi prende in giro. Invece io faccio orlo tutti questi giorni. Senta, lo sa che ci sono i tutorial per farsi le mascherine, visto che sono ancora oggetto raro, lei potrebbe farsi delle mascherine? Sì, questo adesso sarà il prossimo step. Adesso ci proviamo. Si prende un bel velluto pesante, un bel fustano, uno spigato okay. siberiano e fa delle belle mascherine impenetrabili. Ci prova almeno. Grazie. Anche se poi non funzionano, le tiene per casa e basta, così, giusto per casa per mantenere l'abitudine. Cristina da Milano, cosa hai imparato? Ma ho imparato a conoscere il muratore che c'è in me, Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Ho rifatto un'intera camera e ho stuccato in una maniera meravigliosa. Ho imparato che cos'è lo stucco. E ho fatto... La materia prima, dove l'ha trovata che è tutto chiuso? Questa è la cosa importante. No, su una, non faccio nomi, però su una catena di vendita di robe di bricolage è aperta e quindi si può prendere cose del genere, si possono prendere cose online. Del genere. No, no, fisicamente sono andato, ho fatto la mia bella coda. No, perché adesso dico la mia debolezza. Sentendo Manera tutti i giorni con la sua pistola a vapore, gli ho invidiato tanto, ho ordinato subito su Amazon la pistola a vapore, mai più senza. Questa mattina mi è arrivato il messaggio di Amazon che non la possono consegnare. Si vede no, che è una tragedia. Siccome Manera lo c'ha tutti i giorni, c'è una richiesta di pistole a vapore talmente esagerata. Io che già sognavo il piacere di vaporizzarmi tutta casa, vaporizzarmi i vestiti, vaporizzare il buco della chiave, vaporizzare tutto, sono rimasto malissimo. Mi devo costruire una pistola a vapore adesso. Prenderò una caffettiera, una pentola a pressione, mi costruisco una pistola a vapore. Lei quindi adesso ha imparato a stuccare e a fare falegname. E a fare il falegname, il famoso taglio a 45, che è difficilissimo, perché è come beh no, prendi vendono, le misure. Vendono la guida, quello, vendono la guida per no, farlo. Quello d'accordo, ma devi saper prendere le misure, se no sei sempre un pezzo fuori. Infatti io 2 o 3 volte ho sbagliato, poi ho capito, fantastico. No, viene in mente che a Natale mi hanno regalato gli ascoltatori fedeli una motosega, che tengo come bellissima. Soprammobile. Io comunque con quella detto, proprio che faccio qualche lavoro. Basta collezione di scarpe, solo collezione di attrezzi. Ho una camera di attrezzi da lavoro che faccio invidia a un vero falegname. E vedi, domani questa, mi arriva... Ha ritrovato il gusto dell'utensile sì. attrezzistica da falegname, da meccanico, sì, bello. Poi messi tutti la fame in ordine, viene mangiando. Sì, poi messi tutti in ordine con la cassetta, poi quando le finisco di lavorare magari sono sporche, le lavo tutte. Si, un faccia, regalare, si faccia regalare al suo compleanno una bel cofanetto di chiavi a tubo che sono indispensabili a casa, e anche le chiavi a brugola possono sempre servire. Ci faccio regalare un set di chiavi a brugola e chiavi a tubo. Amore, cosa vuoi per il tuo compleanno? Ti regalo delle rose rosse? No, voglio una cassetta USAG di chiavi a tubo. Stefano da Bologna. Buongiorno. No, fermo un attimo, do la linea e poi riprendiamo. Quindi in questo momento di quarantena, se siete a casa e si è rotto purtroppo qualcosa, ahimè, non sapete come fare, se trovate una ferramenta più vicina a voi, potrete andare direttamente ad acquistare questo prodotto. Deve essere unito bene e deve essere tenuto, cioè lo dovete tenere 7-8 ore almeno fermo, per come l'avete incollato bene. Questo era un signore dal canale YouTube Fai da te che fai per tre, che spiegava come si incolla. Non aveva niente da fare oltre aver comprato la colla, spiega agli altri come si incolla. Stanno arrivando tantissime telefonate di persone che hanno imparato mestieri mai immaginati prima: signore falegnami, lattoniere, maniscalco, elettricista, insomma un po' di tutto. D'altronde questo ci lascerà. Io non credo che diventeremo migliori, mi sembra un po' una stronzata questa cosa. Usciremo migliori, usciremo infami come siamo entrati, anzi anche peggio, saremo anche più incattiviti. Però avremo imparato a fare tante cose che prima non avremmo mai imparato. Sono quelle arti sottili che una volta si imparavano, che ne so, durante il servizio militare. La cosa più utile che ho imparato io, visto che ho sparato 3 colpi in un anno e tirato una bomba a mano finta, ho imparato a fare le penne. La penna del militare era una penna Bic che si prendeva, si comprava del filo di raso di tutti i colori e si avvolgeva questo filo e si scriveva poi, non so come, attraverso un sistema che non sono mai riuscito a finirne una, il nome della fidanzata, a cui si mandava questa penna come pegno d'amore, come sorta di tentativo disperato di lasciare un minimo di memento del randello amoroso, ma in realtà era già passata dalla penna Bic probabilmente al pennarello, e quindi è stato un lavoro del tutto sprecato. Ma molta gente ha imparato andando in galera a fare i tatuaggi, ecco, queste cose utilissime nella vita. Voi cosa state imparando facendo la quarantena per il coronavirus? 800 24 0024. Cristian da Bergamo. Buongiorno, buongiorno. Cosa è riuscito a fare lei? Una cosa incredibile, perché io non so fare manualmente nulla, manco cambiare una lampadina, ma non è una battuta, è vero. Ma impara adesso, è il momento. Ma la lampadina ho paura, perché l'elettricità ho paura, insomma, sono un fifone da questo punto di vista. Stacca la corrente, esiste un interruttore generale in tutte le case, staccato quello può metterci sì, anche la lingua. Devo capire dov'è, però al di là di quello... Ma come non sa dove è l'interruttore generale in casa sua? No, ma veramente sono patologico. Sì, non merita avere la responsabilità di avere una casa, lei dovrebbe essere rieducato, capito? Ma io concordo con lei, però incredibilmente... ci ho messo 10 ore circa per fare questa cosa, sono riuscito ad aggiustare la lavastoviglie. E qual era il problema? Era intasato il filtro? No. Il problema è che questa lavastoviglie sembrava una magia, anche spenta, pur essendo la corrente, diciamo, staccata, la lavastoviglie funzionava lo stesso da sola. Guardi, lei fa un po' di confusione. Lei probabilmente ha staccato un altro interruttore, non so, l'interruttore no, della... No, mi creda. No. Il mi gas. Creda, ma poi ho capito perché. Perché praticamente il sistema di sicurezza anti-allagamento, così lo chiamano, se c'è presente un pochettino, anche solo un millimetro di acqua nel fondo in una vaschettina che c'è apposta, la lavastoviglie da sola, in autonomia, va comunque in continuo scarico. Per cui era spunta fuori l'acqua, sì, esatto, però acqua non ce n'era all'interno, diciamo, dove si mettono i piatti, ma era presente in questa vaschettina. Io l'ho scoperto tramite YouTube, sono riuscito, ho messo 2 ore per smontare, per capire dove dovevo smontare le 4 viti, ho asciugato quest'acqua, ho rimontato il pannello, altre 2 ore. Quindi ha tolto l'acqua da questo serbatoietto di sicurezza, praticamente. L'acqua, cioè 2 dita di acqua, praticamente c'è un galleggiante, che non sapevo manco cosa fosse un galleggiante, è ritornato nella sua posizione normale e la mia lavastoviglie funziona perfettamente. Ma si sente soddisfatto adesso? È come se avesse fatto una scoperta scientifica importante in questo momento. Guardi, io nella vita faccio tutt'altro. Questo abbiamo faccio veramente tutt'altro. Diciamo che le mani le uso sugli altri, nel senso che faccio l'infermiere, per cui da quel punto di vista lì, insomma, mi sento abbastanza abile, visto che sono quasi 30 anni che lo faccio. Però io per me è stata una soddisfazione veramente enorme, cioè, ma non potevo neanche crederci. Ho avuto anche paura i primi giorni ad usarla, perché ho detto sicuramente avrò sbagliato qualcosa. Sto pensando veramente con un senso di tremore diffuso. Se capitasse a me dove fare il suo mestiere improvvisato, non so, con le cose tipiche, estrarre una pallottola, una freccia, queste cose, le dico paradossali per sdrammatizzare, certo. Che ne so, con un coltello da cucina operare una persona di appendicite, con una forchetta aprirgli una valvola cardiaca, queste cose qua che si fanno solo nei film, dovrei fare lo stesso percorso difficile ma di soddisfazione. Sì, il livello di stress è stato quello, però la soddisfazione è comparabile anche stata un'enorme soddisfazione. No, me lo immagino che oggi Cristian da Bergamo sarà felice, perché guarda la sua lavapiatti, dice: ti ho sconfitto, ti ho dominato, sì, sei ho mia, vinto ti ho pagato, io ho vinto, ho vinto io dopo 2 anni che non funzionava. Sentiamo Marco da Terni con un'avventura simile. Marco da Terni, buongiorno. Buongiorno, niente, io praticamente sono riuscito a riparare il mio cellulare vedendo come si riparava su YouTube e comprando tutte quelle occorrenti che e qual era il tipo di danno, qual era stato, cosa ha cambiato? Praticamente si era rotto, come penso a tutti, cadendo il cellulare si è rotto praticamente l'LCD e quindi lei ha cambiato l'LCD. Beh, è una bella operazione, cioè sembra facile nei tutorial, ma non è manco facile, bisogna farlo bene. Lei ha comprato il pezzo e l'ha cambiato? Sì, ho comprato il pezzo e mi sono fatto arrivare, addirittura c'era, cioè, compreso con il pezzo, il cacciavitino, sì, cacciavitini, certo. E quindi praticamente scollato, Esatto, l'ho fatto tutto. Io pensavo da poterlo buttare, invece sono riuscito a fare una cosa. Ma quanto che è poi felice adesso lei che ha imparato a fare questa cosa in più? Hai capito che si può cambiare? Sì, lo sai perché poi un mese prima già mi si era rotto, l'ho portato a riparare, ho speso 100 euro. Quindi praticamente con la metà di quello che è la riparazione sono riuscito a farlo. Vedi, l'umarellaggine si sta lentamente impossessando di lei. Sentiamo Marco da Torino. Marco. Ah, buongiorno Nicoletti. Io questa mattina mi sono svegliato particolarmente cattivo e allora, come ho sentito la trasmissione, ho preso la palla al balzo. Dunque, tempo fa sono andato in discarica e chiaramente con un buon umarel ho trovato di fare un vaporetto di queste macchine per fare il vapore, per lavare, per pulire le fughe delle piastrelle di per terra. Quella che ho cercato disperatamente di comprare su Amazon, mi ha detto stamattina, sono finite, le vogliono tutti adesso. Per questo, avere una vecchia vaporella a casa è una cosa fantastica. Esatto. E adesso l'ho smontata, era praticamente solo tanto sporca, poi mancava un pezzettino, una specie di tubo rivestito, così alta pressione. Sono andato a recuperare tutte le mie vecchie. Sì, mi scusi, in un momento di distanziamento sociale, come fa lei ad andare a razzolare per discariche? Tempo fa. Io sono un perfetto umarel. Il suo hobby, il suo hobby dei bei tempi di quando si poteva uscire. L'avevo buttata lì, dico, vabbè, vediamo un attimino, recupero anche ma solo la prolunga. È una maniera inesauribile la discarica, uno va lì, cerca, esatto. La gente butta via tutto. Insomma, poi l'ho provato, dico, ma non emetteva vapore, però la pompa funzionava, dico, aspetta un attimo. Adesso funziona, diciamo? Adesso funziona benissimo, mancava solo un pezzettino di tubo un po' strano, così ho la gente butta via le cose senza manco pensare che si possono riparare. Sono andato a recuperare questo pezzettino di tubo la mia vecchia attrezzatura da aeromodellista, che anni fa facevo aeromodellista, insomma funziona benissimo, tutti contenti, mia moglie, tutti quanti. Ecco, non sono certo io quello che vuol fare l'ottimista della situazione, però ecco, almeno questo potremmo dirlo, la reclusione forzata ci ha fatto aguzzare l'ingegno e abbiamo capito che con le proprie mani si possono fare tante cose, oltre a quelle rituali che molti avranno ritrovato come pratica che era dimenticata probabilmente. Carla da Milano. Sì, ciao, io ho imparato a fare le famose famigerate mascherine chirurgiche. E con cosa le fa lei? Allora, le faccio, ecco, la dritta mi è stata data da un medico, quelle traversine per i bambini, quelle per evitare che passi la pipì, quelle sono un materiale specifico. Ho utilizzato la prende la traversina, quell'oggetto innominabile che si mette nel letto per chi se la fa addosso. Bravissima. Ma è di gomma, di plastica, io ricordo, c'ho i figli piccoli. No, ma vanno benissimo, sono leggerissime. Quelle per i bambini sono leggerissime. Magari quelle per gli adulti non saprei, ma vanno bene quelle anche per adulti incontinenti, magari, però filtrano di più. Una bella traversina per adulto incontinente, secondo me funziona. Vabbè, poi è difficile da cucire, però. Ho una macchina da cucire. Lago da sellaio. Sì, avevo però mi mancava gli elastici, perché gli elastici ovviamente in internet arriva tutto, per cui ho trovato anche gli elastici proprio per le mascherine e quindi... Potrei ricavarli da delle vecchie mutande di famiglia, però scusi, gli elastici si trovano. No, quelle lì non si possono vedere, quelle lì sono proprio brutte, invece queste sono anche più fini e quindi... E ci manda in giro qualcuno di famiglia con la mascherina fatta con la traversina. Ma sono perfette, lei non lo vedo perché della Ma la traversina era stata già usata da qualche bambino che ha fatto quella che si dice sono le lacrime degli angeli, queste cose qua, queste cavolate. Le lacrime degli angeli. Sì. Quindi suo marito va in giro con una mascherina con delle macchie giallastre sopra, praticamente. No, diciamo che evitiamo queste cose qua, però alla bisogna si può fare pure quello. Certo, di fronte al fatto di uscire con la maschina. Benissimo, grazie Carla, è stato utilissimo il suo contributo. Marco da Padova, cosa ha imparato a fare? Buongiorno Nicoletti, io avevo la moglie in completa paranoia per la ricrescita dei capelli, come molte donne. È partita, si è andata a prendere la tinta e poi mi ha chiesto, te la senti di mettermela tu, di applicarmela tu? Io sono stato molto contento, mi sono impegnato al massimo, aveva la mantellina e tutto quello che ci voleva ed è venuto un lavoro, le dico, quasi sono quelle perfetto. Cose che diciamo ridanno sapore, spessore e malizia a un matrimonio ormai spento. Ma caro, anche stasera perché, mi rifai perché, la tinta anche perché Nicoletti è stata l'occasione per sdebitarmi un pochino per tutto quello che lei fa per me e le dico un'ultima cosa. Cosa fa? Taglia le unghie, fa... queste cose qua? Le dico di più, che a volte, cioè, da sempre mi fa la ceretta mia moglie, perché i peli sulla schiena è una cosa che non sopporto. Ecco, vabbè, le dico, fa parte dell'intimità coniugale. La moglie taglia i peli sulla schiena, strappa i peli dalla schiena, il marito toglie l'autostrada grigia in mezzo alla testa. Mi sembra giusto. Solo questo, Nicoletti, poi la lascio. Quando si fa una cosa, anche se non si sa farla, ma si fa con amore, il risultato è quasi garantito. Grazie, Nicoletti. No, ma tutti i peli che le strappa dalla schiena sua moglie, può riapplicarseli in mezzo alla testa, che saranno neri probabilmente, così riacquista il colore originario anche della sua capigliatura. No, dovrebbe attaccarmeli sulla mia testa, che non ce li ho i capelli, ma verrebbe una cosa. Fate degli scambi piliferi, tanto il tempo ne abbiamo tanto a disposizione. Va bene. Abbiamo ancora una telefonata? No, fermiamoci un attimo, riprendiamo tra un po'. Tantissimo. Melog. Oggi un video aggiornato della mia manicure, visto che siamo in quarantena, ci prendiamo anche un po' cura di noi stessi. Solitamente procedo a rimuovere lo smalto con un solvente senza acetone. Dopodiché, per limare, utilizzo delle lime in cartone con due diverse grane e poi uno spingicuticolo in metallo. Quindi per prima cosa do la forma limando le parti laterali, quindi ridimensionando in pratica l'unghia, e poi do la forma che più mi piace accorciandole anche. Questo è un altro problema, quello che ci sta annunciando Federica nel suo canale YouTube è la manicure. Ecco, voi direte, ma che ci vuole, te la fai da solo? Mica è vero, c'è chi è abituato ad andare da chi fa questo lavoro e lo fa bene, però essere andati per tanto tempo da persone che lo fanno professionalmente fa sì che uno adocchia anche gli strumenti che usano, e quindi anche a casa, da soli, se uno ha un buon trapano Black & Decker con degli accessori e delle frese usati con la dovuta cautela, possono anche, diciamo, supplire a quegli attrezzi meravigliosi che hanno le manicure. Come fate voi a supplire a questa operazione importantissima, che nelle famiglie dove c'è sudditanza di genere lo fanno le mogli ai mariti, nelle famiglie dove c'è libertà si va a fare della manicure, nelle famiglie in cui scatta l'umarellismo uno deve farselo da solo. Claudio da Latina. Buongiorno Nicoletti. Allora, io mi sono dedicato in questo ultimo periodo alla meccanica, che per me era qualcosa di veramente di allucinante, molto lontano per me, mettere le mani su oggetti meccanici. Allora, e cosa ha aggiustato in questi giorni? Cosa ha aggiustato? Allora, innanzitutto un motorino, addirittura uno Scarabeo, un 50cc abbandonato, oramai praticamente non partiva più, non faceva più nulla, l'ho smontato fino all'ultimo pezzo. Quindi lei, diciamo, anche un garage, una tavernetta, diciamo, sì, oltre l'appartamento. Un garage, ma la cosa curiosa è questa, che l'unico sistema che ho trovato, che ho capito, diciamo, da poter utilizzare, quando si smonta qualcosa di sconosciuto conviene fare tante piccole foto con il cellulare per ricordarsi come la roba era montata prima, perché certo, altrimenti se uno non è avvezzo a questo tipo di cose diventa uno può impazzire, soprattutto il motore dello Scarabeo. Sbaglia una guarnizione, ha finito, non può più. Ma che scherziamo, c'è una cosa allucinante. La seconda cosa che ho fatto, ho sistemato la ciclette che avevo invece in camera, perché bisogna in qualche modo muoversi un pochino, e anche lì ho provato a utilizzare per la prima volta la saldatrice elettrica, che era nuova di zecca ma mai utilizzata, sempre in garage. Poi adesso deve spiegare, lei perché aveva comprato un saldatore elettrico se non è capace a usarlo? Esatto, perché nel passato, voglio dire, ci stavano, quando vai in questi supermercati su iper attrezzati, non faccio nomi, diciamo, per lobbistica, un saldatore elettrico è un attrezzo complicato, non è il saldatore a stagno, è un saldatore elettrico. Ho capito, uno si può far male se non lo sa usare. Stava in offerta, quindi l'ho comprato. Ma ci fai col saldatore elettrico in casa? Ma vabbè, allora, la cosa curiosa è che quando uno usa un saldatore elettrico non si regola sulla potenza, se non che invece di fare la saldatura fa dei buchi enormi. Certo, è quello, dico, è pericolosissimo. Sì, ma se casca sul piede quella roba rovente che cade, gli fa un buco, eh. Lo so. Ma la mascherina per gli occhi ce l'ha almeno, la maschera protettiva. Sì, perché era di dotazione anche la mascherina da tenere davanti agli occhi. Ma col saldatore cosa ha fatto, ad esempio? Mi dica un lavoro fatto col saldatore. Allora, il telaio della ciclette che si era sbriciolato praticamente l'ho ricostruito apponendo dei pezzi metallici e saldandoli per ricostruire il telaio. È un lavoro delicato perché bisogna dire, se era fatto di una lega che non poteva saldare lo rovinava ancora no, di più. Sono di ferraccio. L'ultima cosa carina è questa proprio di ieri. Allora, il mio vicino di casa, stupenda questa cosa, a un certo punto ingegnere edile. Allora, sì. Lo vedo che impasta della malta, dico che fai? Ci provo, come ci provi? Sì, ci provo perché l'abbiamo studiato, a me non l'ho mai fatto. Oh, caspita, beh, certo, dico, chiaro. Veramente? Beh, l'ingegnere mica impasta al cemento. Ho capito, però voglio dire, se dai degli ordini... Cioè, anche studia i numeri, le quantità di cemento da usare, in un particolare, ma non è che lo fa lui con la pala, Allora, però quanto sarebbe stato utile se i nostri ingegneri architetti avessero utilizzato qualche volta la pala, però vabbè, fatto sta che... Cosa ci ha fatto sto cemento l'architetto, l'ingegnere poi? Ha rifatto tutto il muro di cinta che reggeva la ringhiera perché si era sgretolato. Io sono rimasto affascinato, è stato bravissimo. E allora ho detto, e lui ha detto, quando torno al lavoro so cosa devo dire. Esattamente, abbiamo trovato con difficoltà un lato positivo. Beatrice da Genova. Buongiorno, mi sente? Cosa hai imparato a fare lei? Ma sì, certo. Io avevo dei precedenti in famiglia perché avevo una madre che faceva tutto durante la guerra, aveva imparato a fare tutto, mentre mio padre che era ingegnere non riusciva neanche a cambiare le lampadine. Sì, anch'io avevo una nonna che aveva fatto la guerra e sapeva fare tutto. Mi regalava anche lei gli attrezzi. I miei compleanni da bambino, la nonna mi regalava martelli, trapani, seghe, lime, tutto. Sì. È rimasta la passione. Solo che adesso le cose sono un po' più complicate, cioè i cavi elettrici non sono più come quelli di una volta. Sono tanti, una volta c'era la piattina, è certo. Hanno le prese asciugo, è così, era finito un cavo con la presa asciugo della bistecchiera all'interno della bistecchiera, quindi si era fuso, aveva fatto saltare tutto. E allora niente, mi sono messa lì di buzzo buono, ho chiesto a mio marito, che è ingegnere anche lui, l'unica cosa che mi ha detto fondamentale, dove va la presa a terra. E allora, quella con gialla, questa, è un filo gialla. Gialla, ecco, con questa unica indicazione mi sono messa lì, ci ho messo un'ora, un'ora. Quindi e mezza. Ha tagliato non il filo, so, ha ritirato fuori i fili, i tre cavetti. Ho dovuto trovare una presa che non era proprio un asciugo, ma era una bella presa grossa con le sue tre posizioni, e lì col coltellino mitico francese, lo pinello, sbuccia, sono riuscita a isolare i fili. Sì, che un coltello farlocco, che la lama balla, non serve a niente, bello no, a vedere, no, ma no, ci si taglia. Forma... È fantastico, io l'ho trovato fantastico, la cosa più difficile... Si ammoscia subito, vabbè, comunque... la cosa più difficile era arrotolare i fili di rame in modo... sottile, compatto, per infilarli nella loro sede. E ci si buca le dita per farlo, bisogna stare attenti, ci si fa male. Portato via veramente, un tempo infinito. Però poi stringi a vita, chiudi, briga, fai. E a Genova dicono imparare a fare i tapulli, che sono queste aggiustature così casalinghe, funziona perfettamente. E io ero veramente al settimo cielo a quel punto. Tanto se non funziona scatta l'interruttore d'emergenza. Ah, beh, quindi, certo. No, funziona. Sì, funziona. Ci scaldiamo i nostri panini e siamo molto lieti. Al prossimo aggiustaggio, Alexandra da Firenze. Alexandra, buongiorno. Buongiorno. Cosa ha fatto lei che non ha mai fatto prima? Allora, io ho imparato di fare il lievito madre, non l'ho fatto mai, perché originalmente sono russa e questa cosa, diciamo, questa tradizione di fare il lievito madre in Russia non esiste, però è la grande madre Russia, si dice proprio così, si chiama così. Sì. La grande madre Russia è stato molto interessante, però devo dire che non è ancora pronto, perché ci vuole... Sì, è come allevare un alieno dentro casa, capito? Perché il lievito madre bisogna andarlo a vedere, accarezzarlo, lavarlo, fargli il bidet, tutte queste cose. Nostro figlio, questo lievito madre. Ma adesso non se ne libera più, però tutta la vita se lo porterà dietro il lievito madre. Crescerà sì, con sì, lei. Ha fame, sempre, vuole attenzione. Lei può cose. Sempre farsi fare un permesso per uscire e dice porto fuori il lievito madre invece che il cane. Se qualcuno la ferma, ci porta a prendere un po' d'aria il lievito madre. Alexandra ha imparato il lievito madre, Ave da Forlì invece? Io invece no, ho imparato a fare il pane, però tutte le altre cose, cioè il taglio dei capelli, il colore ai capelli, la sartoria per allargare i vestiti che non vanno più bene perché sono vecchia, mi sono ingrassata. Tutte beh, questo mica si è ingrassata in un mese, scusi. Ave, no, mi sono ingrassata negli anni. Certo. Ma questo già lo sapeva fare da prima, ma voglio sapere in questi questo ultimo mese e mezzo cosa hai imparato di noi? Più che altro ho imparato a fare il pane, per il resto tutti i lavori che ho sempre fatto io. Giardinaggio, tutte le robe le faccio tutte quante, dalla mattina alla sera sono sempre dentro a lavorare io. Ma il pane perché? Perché fa prima il farsi pane dentro lo casa faccio che... perché siccome non si può uscire, no? Allora, fare la spesa si può andare a fare la spesa vabbè, si può. Ma il pane io lo prendo tutti i giorni perché non mi piace il pane duro, per cui io alla mattina mi metto lì, faccio l'impasto, poi quando è una certa ora lo metto nel forno e quando è ora di e panifica pranzo, tutti i giorni lei fa il pane tutti i giorni? Sì, tutti i giorni lo faccio. Lo sa qual è il problema? Perché una volta uno che si abitua a farlo dentro casa, che è particolarmente buono perché c'è un altro sapore, sente il profumo, è difficile poi ricomprare quello che si compra fuori perché sembra che sia di qualità inferiore, anche se magari non è così, ma è un'abitudine. Per me è inferiore, è migliore quello che faccio io. Comunque, ma adesso continuerà a farlo anche dopo, continuerà a farlo anche nei giorni a seguire. Veramente io ho 78 anni, non so quanto potrò campare ancora. Vabbè, scusi, mi faccio toccare gli oggetti di ferro. L'aspettativa di vita per una donna ancora un'altra decina d'anni ce l'ha tutti se vuole. Di media, poi può andare anche oltre che vuole. Continua a fare il pane che le porterà bene. Vabbè, speriamo. Oggi abbiamo voluto un po' dimenticare che in fondo... se potevamo scegliere non è che stavamo a casa tutti questi giorni, preferivamo fare altre cose che imparare a aggiustare i lavandini, a farsi il pane e via dicendo, però anche di necessità bisogna ogni tanto fare virtù. Ci sentiamo domani.